Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La prevenzione vince. Il test della ricerca del sangue occulto nelle feci consente di rimuovere lesioni sospette in fase precoce e di ridurre la mortalità. Commentiamo questo dato insieme al professor Giordano Beretta, presidente nazionale AIOM e responsabile dell'oncologia medica all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Il dato è particolarmente interessante perché analizzando quella che è stata l'incidenza del tumore del colon alcuni anni fa rispetto a quella che è stata lo scorso anno, vediamo come ci sia stato globalmente un calo dell'8%. Questo è dovuto al fatto che il test del sangue occulto consente di sottoporre a colonoscopia soggetti che presentino il test positivo, che magari non hanno una patologia oncologica o hanno una patologia oncologica in fase iniziale. Nel secondo caso la patologia oncologica in fase iniziale viene rimossa precocemente e questo consente migliori percentuali di guarigione. Nel primo caso addirittura si possono asportare delle lesioni cosiddette precancerose, cioè che non sono ancora un tumore e quindi non lo diventeranno mai, per cui asportare queste lesioni comporta un minor numero di tumori del colon. E questo è il motivo per cui il test del sangue occulto ha un doppio significato, cioè quello di diagnosi precoce, quindi prevenzione secondaria, ma anche quello di prevenzione primaria, cioè di rimozione della causa dell'insorgenza di un tumore. È quindi importante che alcune categorie di persone si sottopongano regolarmente al test del sangue occulto. Professor Beretta, ma chi deve sottoporsi al test del sangue occulto? Il test del sangue occulto come screening viene fornito a persone che non hanno sintomatologia intestinale. Questo perché viene fatta una ricerca su tutta la popolazione al fine di individuare, come si diceva prima, lesioni molto iniziali o addirittura prima ancora che le lesioni ci siano. Normalmente lo screening viene offerto tra i 50 e i 69 anni, ma in alcune regioni si comincia già ad offrirlo in età più giovanile e soprattutto in età più tardiva, cioè tra i 44, 45 e 74 anni. Questo può consentire di evidenziare anche in questi soggetti di età differente da quello che era lo storico la presenza di lesioni molto iniziali o addirittura precancerose. Esiste poi un altro aspetto, perché lo screening, come ho detto, deve essere fatto da persone che non hanno sintomatologia. Quando ci fosse una sintomatologia intestinale, il test può essere fatto anche da soggetti che non siano nell'ambito dello screening, dove magari in alcuni casi può essere indicata in prima battuta direttamente la colonoscopia, però a volte può essere sufficiente anche solo il sangue occulto. L'altro aspetto che deve essere preso sostanzialmente in considerazione è quello dei soggetti che abbiano una importante familiarità. In questi non si parla di screening, bensì di sorveglianza. La differenza tra lo screening e la sorveglianza è che lo screening è una cosa che viene ripetuta ogni due anni in soggetti asintomatici e senza fattori di rischio. La sorveglianza vuol dire un'attenzione un pochino maggiore in chi abbia un rischio più alto, proprio magari per la presenza di una familiarità, per la presenza di una patologia cronica intestinale o per altre situazioni cliniche. Per oggi è tutto, tra poco in diretta Facebook parliamo di artrosi al ginocchio. Si può evitare? Restate con me mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Una buona giornata da Nicoletta.